later, then you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli aleggia ovunque l'incubo della morte, Kappa e Drago parlano di terrorismo col pollo in sbattimento. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Grande gita per tutti i polli della fabbrica. Viaggio gratuito verso i luoghi caldi. Scoprirete con noi i contrasti dei luoghi caldi. Nei luoghi caldi, il passato e il futuro convivono in un affascinante contrasto. Grattacieli a tu per tu con carretti trainati da muli. Ricchi occidentali bastardi che mangiano a colazione la dieta settimanale di un bambino indigeno. Il Medioevo e la PlayStation nella stessa capanna di frasche. Venite, pollastri! Venite con noi nei luoghi caldi! La strategia del padronato è chiara: farci andare tutti in gita, farci credere che stiamo tutti bene e poi caricarci sui treni piombati che vanno ai forni crematori. Ma la nostra controffensiva è altrettanto chiara e dura: lotta senza quartiere contro l'imperialismo degli allevamenti aviari. Vi piace? Beh, è un po' difficile, ma mi sa che funzionerà. Difficile, sì. Allevamenti aviari, un po' difficile, sì. Poi sembra proprio quello che diceva Curcio quando scriveva i suoi comunicati ultra contorti. Pensava, il popolo capirà e si solleverà. Sì, uè, stai tranquillo, che io la mia gente so come si parla. Ah sì, tu per esempio, Tarek, ha capito la frase lotta senza quartiere contro l'imperialismo degli allevamenti aviari. Io chiederei a Tarek, che vabbè, è lì con te. Tarek, cosa vuol dire? Vediamo. Tarek, tu hai capito, no? C'entra col pazzo? Sì, sì, sicuramente. Sì, certo, ecco, bene, ti sei scelto bene. Ma lui deve fare la foto qui. You know your chickens. Cos'è che deve fare? Lui deve fare la foto e basta. La foto di chi? Le foto. Di cosa? Io non mi ricordo già più di cosa parlavi. Vedi puntata di ieri. Io intanto ci ho fatto arrivare con un camion il ciclostile originale delle Brigate Rosse. Il ciclostile originale? L'ho rilevato in un'asta fallimentare. Nel senso che è fallita anche la casa d'asta mentre ero lì, eh. Ah, il ciclostile è la macchina! Certo. Un pollo che va all'asta e compra una macchina per ciclostile. Ma scusa, non è meglio una stampante laser? Ma che laser? Io voglio fare volantini come li facevano allora. E con gli stessi difetti tipografici di quelli delle BR. Ma anche un esteta. Accidenti. Come si chiama il tuo movimento? Il pugno nel pollo. Che cosa? Il pugno nel pollo. Pugno nel pollo. Il pugno nel pollo? Allora, il nome è deciso. Ok, pugno nel pollo. È sul simbolo che sto ancora un po' tentennando. Il simbolo, è importante il logo, eh. Che c'è o un pugno vicino al pollo. Sì. O un pugno che sparisce all'interno del pollo. No, ma sparisce come? Che si vede solo il polso e il pugno non si vede più. No, ma insomma, ma dai. Cioè? Cioè, tipo, non so, magari il pugno che entra nel pollo della pancia, no? Ah, ma no, ma così sembra contro i polli, che dai un pugno al pollo. Cosa vuoi fare? No. Come no? Tu, scusa, metti insieme un bel pugno, vigoroso, sì, infilato nel pollo. Il pollo è la guida del pugno, hai capito com'è? Ma insomma, sì, sembra. Non so, non mi convince. Sembra più tanto una farcitura contro natura, non so. Il pollo è la mente. E il pugno è il limone. Sì, ho capito. Vabbè. Ma così. Non so. Il pugno è il simbolo della forza. Ho capito, certo. E il pollo invece, che sono io, è il simbolo. Che ha il pugno nel. No, voglio dire, è il simbolo dell'intelligenza, no? Mamma, che voi siete due polli inconsapevoli! Sì, due polli inconsapevoli. Ma dovete aprire gli occhi! Una volta aperti gli occhi, poi non potete fare a meno di aderire alla causa rivoluzionaria! Voi siete sempre lì in piedi, fermi come due bamba, a far niente! Qui intanto si muore! Si crepa di nebbia! E voi? E noi, appunto! Voi dovete aderire! Ma non è vero! Il pugno nel pollo! Il pugno nel pollo! Oh! Asta paroxetina sempre! Sempre! La paroxetina! Sempre! You are the cat. Scusi lei, mi sembra un pollo iscritto all'Opus Dei. Io l'ho vista, sa, lei lascia tracce matiche in città. Scusa, sai, ti do del tu, ma non ti sembra un po' blasfemo stare con le chiappe al vento, con la frusta in mano, a dir l'Ave Maria? Maria, Maria, ti amo. Chiedi a me se vuoi due calci in culo. Chiedi a me, vuoi esser mortificato? Chiedi a me, vuoi due frustate al volo? Chiedi a me, se vuoi ti recito Baudelaire, i fiori ti faranno male. Stare, altrimenti te ne do di più, altrimenti te ne do di più, altrimenti te ne do di più. La fabbrica di polli. Grande gita per tutti i polli della fabbrica. Viaggio gratuito verso i luoghi caldi. Scoprirete con noi le usanze dei luoghi caldi. Nei luoghi caldi i polli sono adorati come divinità magiche. Nei luoghi caldi ci sono 37 galline vergini che vi aspettano ad ali aperte. Nei luoghi caldi non farete mai più la coda per becchettare il mangime. Venite pollastri, venite con noi nei luoghi caldi. Laicità dello Stato. Sì, beh, giusto, sì, laicità, cioè, episcopale. Legalizzazione delle droghe leggere. Sì, leggere, anche pesanti. Bravo, sta zitto. Gambizzazione agli spioni, ai servi dell'America. Sì, sì, da spioni. Autobomba dimostrative. Com'è? Autobomba dimostrative? No, forse autobombe. Autobombe dimostrative. No, però non suona bene. Forse autibombe. Autibombe dimostrative. Dimostrativi oppure autibomba. Autibomba. Autibomba dimostrativa. Dimostrativa, no, non funziona. Vuoi un bombo? Un bombo? Sì, vuoi un bombo al cioccolato? Il paté d'olive. Ma no, il paté d'olive. Ma paté, no? Ma chiudi becco, Tarek. Tarek. Ma quell'affare che hai lì. Come sotto affare? Gli occhi. Perché cos'è? Che, il becco. Che buffonata, sì, che buffonata. Il movimento. Guarda che è un capo cellula del pugno del pollo. Non si parla così, hai capito? Ma chi è sto capo cellula? Sei solo che tu. Che non fai tempo a contare fino a tre, che ti ho già riempito di beccate. Vabbè. Hai capito? Perché io il becco ce l'ho. E che becco? Sì, però sei in sbattimento. Sì, è vero. Sono in gran sbattimento. Ma in sbattimento duro. Ho una rabbia dentro che spacco tutto. No, vabbè, dai, sul pollo, adesso. Dai. Ricordati anche la New Age. Devi stare calmo. Non devi spaccare tutto. Ma vuoi sapere cosa dice il pugno del pollo della New Age? Che è roba da bamba. Allora fai scoppiare un'autobamba. Sempre! Che cosa succederà adesso? Serviranno le autobombe dimostrative per liberare i polli dalla loro condizione di spioni servi dei padroni? Per saperlo, sintonizzatevi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo destabilizzante allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Close to the edge.